Sant'Arnoldo Jensen nacque il 5 novembre 1837 a Gok, nella diocesi di Münster in Germania. Il papà si chiamava Gerhard e la mamma Caterina. Questi sposi, oltre ad un'azienda agricola, gestivano anche un piccolo servizio di trasporti. Una famiglia, cari amici, profondamente cristiana, che aveva al centro della vita il Vangelo, tant'è che degli 11 figli che ebbero, due divennero sacerdoti e uno cappuccino laico. Tra questi proprio Sant'Arnoldo, il futuro Sant'Arnoldo, che era il secondogenito, dopo la scuola elementare si iscrisse al seminario maggiore della cittadina di Geistonk, dove nel 1855 ottenne il diploma di maturità. Era entrato in seminario perché sentiva nel cuore un trasporto particolare per Gesù. E proprio il suo desiderio più profondo era il sacerdozio, servirlo totalmente. Ma un sacerdozio inteso oltre che come cura di anime, anche come apostolato nella scuola. E qui, nella città di Münster, fu accolto nel convitto vescovile per i seminaristi e frequentò la facoltà di filosofia all'Accademia Reale. Nel 1857, a 20 anni, anche per completare gli studi, andò all'Università di Bonn e prese alloggio in una casa privata con un seminarista suo compagno, condividevano la stanza e ogni giorno pregavano insieme per molto tempo, per diverse ore, e in modo particolare insieme si recavano per partecipare ogni giorno alla Santa Messa. Qui stette 2 anni. Dopo aver ottenuto l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole superiori, tornò ancora a Münster in seminario e si preparò al sacerdozio con una vita fatta di obbedienze superiori, ma anche di esempio verso i compagni. E visse questa attesa, proprio questa attesa della consacrazione, come un periodo di grazia speciale, con un cuore infiammato dalla preghiera e dalla carità. E arrivò il grande giorno dell'ordinazione sacerdotale. Siamo nel 1861, aveva 24 anni. E qui, subito dopo l'ordinazione, il vescovo, che lo stimava molto, lo nominò subito vicerettore della scuola di Bocholt, un istituto tecnico professionale, e qui insegnava francese, matematiche e scienze naturali. Amava molto la cultura e si diede subito da fare e si adoperò affinché la biblioteca fosse arricchita anche di nuovi libri. E lo stesso fece anche per il laboratorio di fisica, inserendo nuove apparecchiature. Ma era, cari amici, soprattutto un sacerdote, vero, un pastore di profonda sensibilità, toccato nel suo intimo allora da un dispiacere unito a una grande tenerezza nel vedere tante persone, soprattutto giovani, senza un punto di riferimento preciso, piegati da una miseria desolante. Comprese chiaramente che non si poteva continuare così. Il Signore lo invitava a fare qualcosa. Allora decise di istruirli gratuitamente in una scuola domenicana aperta solo per essi. Non solo, il suo amore e la sua carità, queste sono testimonianze che ci vengono date, lo portò in molte occasioni, anche a costo di grandi sacrifici, ad aiutare questi ragazzi anche nel saldare alcuni debiti che diversi di loro avevano contratto per cercare di dare un po' di sostentamento e dare una mano alle famiglie. E lui, nella preghiera, con il cuore sempre unito a Gesù e alla Vergine Maria di cui era profondamente devoto, nei giorni di festa era presente specialmente nelle parrocchie più bisognose di aiuto, in particolare quelle che erano al confine con l'Olanda. Infatti, dove era la sua diocesi, era praticamente a est della Germania ed era a pochi chilometri dall'Olanda. E qui c'era la parte più povera, erano proprio quelle più provate. Era un apostolo meraviglioso, sempre presente là dove c'era bisogno, e quel poco tempo che gli restava libero lo occupava o nell'incontrare ragazzi, quindi nel fare catechismo, nel tenere le omelie, oppure nello studiare la Bibbia. Nel frattempo, nel 1865, Sant'Arnoldo venne a conoscenza dell'apostolato della preghiera, che da 3 anni si andava diffondendo in alcune diocesi tedesche. Tengo a dire che l'apostolato della preghiera, cari amici, nacque verso la metà del 1800 in Francia e ne fu conquistato il nostro santo a tal punto che ne divenne socio e promotore nella città di Bocholt dove insegnava. anzi scrisse un piccolo manuale per spiegare il fine dell'associazione e lo diffuse in 90.000 esemplari nei territori di lingua tedesca. E fu talmente zelante questa sua propagazione che anni dopo fu nominato direttore diocesano dell'apostolato della preghiera. Pensate, oggi a questo apostolato sono iscritte nel mondo 45 milioni di persone. Ma tornando a Sant'Arnoldo, al di sopra di tutto allora c'era la preoccupazione costante delle anime che il Signore gli aveva affidato. E sapendo bene, conoscendo bene il valore immenso proprio della preghiera e anche la preziosità della diffusione di questi opuscoletti, cosa faceva durante le vacanze o il tempo che poteva, diciamo, prendere al suo ministero? Si recava a piedi da un paese all'altro della diocesi, senza badare alla pioggia, alla neve o al freddo, riuscendo in diversi anni a visitare 300 parrocchie su 350. Era instancabile in questo suo amore per Gesù attraverso i fratelli, e il suo cuore era in quello di Gesù. Pensate che a questo proposito ogni venerdì lui celebrava la Santa Messa in onore del Sacro Cuore e in quella celebrazione, pur essendo lui in grandi ristrettezze, perché non aveva diciamo delle grandi rendite, anche perché, dobbiamo dirlo, donava ai suoi fedeli, in particolare ai poveri e agli ammalati, quello che poteva, ebbene in quella giornata rinunciava anche alle poche offerte che venivano fatte. Arriviamo così nel 1869, e in quei giorni si preparò lungamente con la preghiera, perché si teneva nella città di Düsseldorf un grande congresso cattolico a livello nazionale, al quale fu invitato per dare, diciamo, una testimonianza del suo apostolato, proprio della preghiera. Ma quella che doveva essere solo una relazione informativa si trasformò alla fine in un'acclamazione generale. Aveva toccato il cuore dei presenti proprio spiegando l'importanza di questa evangelizzazione attraverso la stampa, attraverso la preghiera. Aveva toccato e coinvolto queste persone con un tale entusiasmo che i congressisti stessi raccomandarono in quell'anno di diffondere questa devozione a tutti i cattolici tedeschi nel paese. Ne fu felice, non per l'acclamazione perché non gli interessava, ma perché sapeva in cuor suo che questo apostolato avrebbe portato la conversione tante anime. E credeva talmente tanto in questa cosa che non si fermò neanche l'anno dopo, durante la guerra franco-prussiana, siamo nel 1870. Non potendo infatti continuare le sue visite nelle parrocchie a causa della guerra, Sant'Arnoldo scrisse e fece stampare un manualetto di preghiere comunitarie, era questo il titolo, per infondere nei cuori e nelle anime il desiderio di amare il Signore, i fratelli e la Chiesa. Ma proprio la sua devozione, cari amici, il suo amore per la Vergine Maria lo portava molto spesso a invitare soprattutto le famiglie a recitare la preghiera del Santo Rosario. Dicevamo soprattutto nelle famiglie, questa era una cosa a cui teneva moltissimo. E per questo, 2 anni dopo l'inizio della guerra, per farlo conoscere al maggior numero di persone, proprio il Santo Rosario e l'invito alle famiglie, percorse la Germania orientale, l'Alsazia, la Lorena, la Svizzera e anche l'Austria. Fu un cammino di grande sacrificio, ma lo fece con una fede incredibile, un grande coraggio, anche rischiando anche la vita. Un altro dolore che allora sentiva nel cuore, e in Germania era molto presente questa cosa, su cui chiedeva incessantemente l'intercessione della Madonna, era il ritorno in seno alla Chiesa dei fratelli separati, cioè dei protestanti. E per questo l'anno dopo, pensate, intraprese un viaggio per raccogliere quanto necessario per la celebrazione di una santa messa quotidiana da protrarre negli anni presso la tomba di San Bonifacio a Fulda. San Bonifacio era un vescovo tedesco benedettino, del fine 600, ed è proprio l'apostolo della Germania. Quindi a lui si rivolgeva per far celebrare queste messe, chiedendo la sua intercessione in modo particolare per ottenere questa grandissima riconciliazione. E, insomma, buona parte della Germania aveva proprio questa presenza anche di protestanti, cioè ancora oggi questa presenza. Quindi gli stava a cuore questa riconciliazione. E pensate, nello stesso tempo riuscì a raccogliere allora anche 500 talleri, che era il denaro anche di allora, a favore di un suo amico che noi conosciamo bene, è la bellissima figura di San Daniele Comboni, allora missionario in Africa e fondatore dei Figli del Sacro Cuore di Gesù. Era una discreta somma, se pensate che un impiegato pubblico allora guadagnava 100 talleri l'anno. Ma comprese la grandezza dell'essere missionario. E insomma, piano piano gli entrava nel cuore questo desiderio profondo di evangelizzare, di portare la fede ovunque poteva. Intanto lo faceva lì, in quelle città dove lui, diciamo, girava, dove era presente, dove invitava le persone a pregare, ovviamente col permesso del vescovo. Insomma, dopo 12 anni di insegnamento, perché nel frattempo insegnava anche, il nostro santo chiese al suo vescovo di essere dispensato dalla scuola. Siamo nel 1873. La richiesta fu accolta e divenne cappellano delle suore di Kempen, con la celebrazione della messa quotidiana alle suore, ma anche l'insegnamento del catechismo nella scuola da essa dirette. E allora cosa divenne la sua occupazione principale? Era la fondazione e la redazione di una rivista mensile intitolata Piccolo messaggero del Sacro Cuore, per diffondere soprattutto tra i fratelli e tra i cattolici l'idea della missione, l'idea missionaria, che allora non era molto sostenuta, non era molto presente, non si capiva perché bisognava andare in altre terre per portare la parola di Dio. Invece è proprio Gesù stesso che ha detto ai suoi apostoli: andate in ogni angolo della terra a portare il Vangelo, no? Lui cosa fece? Visto che nessuno lo aiutava in questo, ma credeva fortemente in questa cosa, pagò lui la stampa e anche la spedizione con i risparmi che aveva. Ebbene, l'iniziativa risultò di grande utilità. Della rivista inseriva anche un volantino per il Rosario Vivente, ideato nel 1826 a Lione, sempre in Francia, dalla venerabile Paolina Yaricot. Qui io direi che un breve cenno è dovuto a questa terziaria domenicana francese, perché fu una donna abbandonata da tutti, pensate, nonostante il bene fatto, ma in quegli anni fu sorretta e lodata dal curato d'Ars. E questa venerabile diceva allora alla Chiesa, e queste parole penso che ricalchino bene la nostra situazione, lei diceva così: andate là, diceva ai sacerdoti, andate là dove la gente vive, lotta e soffre, e chiamatela. Andate nelle famiglie e rivelate che se c'è Dio c'è la pace. Non serve predicare solo nelle chiese, perché le chiese ormai sono quasi vuote. Non serve fare solo catechismo, perché i giovani non partecipano. Perciò andate dove la gente si ritrova e dite ad essa che Dio la aspetta. Insomma, preghiera ed evangelizzazione. Infatti Sant'Arnoldo a questo proposito scrisse: il maggior impulso che possiamo dare alle missioni è quello di esortare la gente a pregare fervorosamente per esse. E vedremo che poi da qui nascerà addirittura una congregazione per l'adorazione perpetua, come vedremo. Intanto, per mezzo, proprio grazie alla sua rivista, nel 1874, lanciò anche un appello per la fondazione di un seminario missionario tedesco, perché non c'era. E dopo Pentecoste andò a trovare Monsignor Raimondi. Monsignor Raimondi era un responsabile delle missioni estere di Milano, quindi del PIME, e prefetto apostolico a Hong Kong, ed era ospite di un parroco lì vicino alla città di Newark, dove era, diciamo, Sant'Arnoldo. E Sant'Arnoldo parlò con entrambi di questo seminario missionario, a suo parere da farsi subito. Certo, non si poteva fare in Olanda, vista la precaria situazione, lo si doveva fare in Olanda, perché in Germania la situazione della Chiesa era veramente precaria. Ecco. E dicevamo perché non si poteva fare in Germania, perché in quegli anni la Germania attraversava un periodo di lotta tra il governo tedesco, quindi con Bismarck, che voleva mettere tutti gli aspetti ecclesiastici sotto il dominio del potere civile. E la Chiesa tedesca ovviamente si opponeva a questo. Questo cosa fece? Non fu una cosa leggera, perché portò all'espulsione, ma anche alla prigionia di molti sacerdoti e anche di vescovi che subivano le leggi anticattoliche derivanti dalla Kulturkampf di Bismarck, appunto. Sant'Arnoldo pensò che proprio questo periodo poteva dare la possibilità a tanti sacerdoti, obbligati allora all'inerzia da questa legge, per essere inviati in missione o almeno aiutare nella formazione i missionari, i nuovi missionari, visto che in Germania mancava un centro che avesse questo scopo. Allora, sia Monsignor Raimondi che il parroco stimavano il nostro santo e lo esortarono a farsi lui non solo fondatore, ma anche direttore di questo nuovo seminario, ma lui era titubante, pensava di non essere chiamato a questo cammino. Insomma, alla fine, dopo molta preghiera, comprese che doveva dire sì e accettò. E lui ci viene descritto piccolo di statura, mingherlino, dalla voce debole e rauca, di modeste doti oratorie e con poche relazioni sociali, questo santo iniziò il nuovo cammino ben conscio delle difficoltà a cui andava incontro. E qui per umiltà, per obbedienza, ma anche per chiedere un aiuto, no? Per gli inizi, siamo nel 1875, si presentò all'arcivescovo di Colonia, era potente, era Paulus Melcher, e gli presenta il suo progetto di fondazione. Ma questo gli dice, ma scusa, dice, viviamo in un tempo dove tutto sta cambiando e sembra crollare, e lei si presenta con un progetto per comunicare qualcosa di nuovo? Sant'Arnoldo rispose, è vero eccellenza, viviamo in un tempo in cui molte cose stanno crollando, ma in cambio altre devono sorgere. Insomma, non si scoraggiò sicuramente, si affidava alla provvidenza come sempre e con coraggio, e disse, Dio può fare con noi ciò che vuole, se dal seminario uscirà qualcosa di buono, ringrazieremo Dio. Se non ne verrà niente, ci batteremo umilmente il petto e confesseremo non eravamo degni di questa grazia. E così, in una data mirabile, l'8 settembre, quindi festeggiamo il compleanno della Madonna, l'8 settembre 1875, Sant'Arnoldo dà inizio alla sua opera a Steyl, in Olanda, perché in Germania, dicevamo, non era possibile. Lo fa con il permesso del vescovo della diocesi, e anche l'aiuto di un diacono, di due chierici e di un parroco. Ma cosa succede? Di questi, solo un diacono, che più tardi diventerà vicario apostolico dello Shenzhen meridionale in Cina, accettò le sue indicazioni. Gli altri invece chiesero il permesso di dimettersi perché non se la sentivano di vivere, queste sono le loro parole, l'atmosfera di convento che regnava nella piccola casa. Qui Sant'Arnoldo si era proposto di far osservare delle regole, lui era molto legato anche all'ordine domenicano e queste regole erano abbastanza rigide, ma lo faceva per ben prepararli. Ma non si scoraggiò neanche questa volta, insomma le prove non mancarono e Gesù era contento di questa comunità e il risultato fu che altri tre diaconi si unirono a lui, erano conquistati, affascinati da questo progetto e con essi, pensate, gettò le fondamenta della società del Verbo Divino, questa nuova congregazione, per la diffusione della fede tra i non credenti e anche gli eretici. E il suo motto era «Viva il cuore di Gesù nei cuori degli uomini». E la vita nella casa dei futuri missionari era povera, austera, con un regolamento, pensate, che prevedeva ogni settimana 4 giorni di astinenza e 1 di digiuno. Ma proprio in questa casa, in quel periodo, il Signore inviò anche un futuro santo. Era San Giuseppe Frena de Metz, era un alto atesino, entrato a Steli e lui quando arrivò scrisse entusiasta, è veramente una casa di Dio, non ho mai trovato qualcosa di simile. Anche a Steyl, dove attualmente è la casa madre, Sant'Arnoldo certo non restò fermo, anzi mise una tipografia per la stampa del piccolo messaggero del Sacro Cuore. E oltre a questo c'erano anche altre riviste di stampo cattolico, quindi la Buona Stampa, con la cooperazione dei fratelli coadiutori. E con una stampa missionaria ben organizzata, aiutata da laici volenterosi che donavano il loro tempo libero alla diffusione delle riviste, pensate, poté avviare al sacerdozio centinaia di giovani che non avrebbero potuto pagare le spese del seminario e a far soprattutto comprendere ai tedeschi, ai suoi, diciamo, ai suoi fratelli tedeschi, l'importanza delle missioni. Poté avviare al sacerdozio centinaia di giovani perché chiaramente poi c'erano molte persone che facevano anche, lo aiutavano anche economicamente in questo caso, avevano compreso, prendevano coscienza della grandezza delle missioni. E anche qui, appena in Germania si allentò la lotta contro i vescovi e contro la Chiesa, Sant'Arnoldo poté stabilire anche qui le fondamenta del suo nuovo istituto religioso e fu eletto superiore a vita, professando i tre voti pubblici perpetui con i suoi primi compagni. L'anno, dobbiamo dirlo, è importante, era il 1885, aveva 48 anni, ma quante ne aveva passate? E sotto la sua guida, la congregazione, abbiamo visto, nata da umili origini, fece frutti meravigliosi. Con il passare degli anni, infatti, riuscì ad aprire 6 grandi case per la formazione dei futuri missionari, quindi oltre che in Germania, anche in Austria, Italia e Stati Uniti, e inviare religiosi in ogni parte del mondo. Era talmente bella questa presenza nei vari paesi che, pensate, Papa Leone XIII, il 25 gennaio 1901, concesse alla congregazione il decreto di lode. Ma quante persecuzioni e quante prove ha dovuto subire il nostro santo. Guardate, era una strada costellata da trappole. E questo purtroppo anche a causa di gelosie e di invidie di tanti. È incredibile, ma molte volte lo avversavano proprio le persone che avrebbero dovuto invece dargli una mano ad aiutarlo. Ma così è, la via del Signore è questa. Ma Sant'Arnoldo non si fermò qui. Nei paesi di lingua tedesca, in quel tempo, allora non c'era nessuna congregazione di suore missionarie. Allora cosa fa? Lui ha pensato alle suore perché potessero aiutare poi i sacerdoti suoi quando andavano in missione, no? E qui con l'aiuto di una, diventerà beata, della beata Maria Stollenberg e di 6 ragazze, pensate, chiasteli, noi pensiamo veramente a cosa fa l'esempio, queste 6 ragazze avevano fatto le domestiche all'interno dell'istituto a Steyl in Olanda, quindi facevano le inservienti, no? All'interno, erano rimaste talmente colpite da questa vita santa di queste persone, che decisero di donarsi alla congregazione. E quindi loro, sotto la direzione di altre suore già pronte, le suore della Divina Provvidenza, anche qui una data, diciamo, importante, l'8 dicembre 1889, prese vita anche la congregazione delle Serve dello Spirito Santo per l'educazione e l'istruzione della gioventù femminile in terra di missione. E da questa seconda congregazione nasce il bocciolo meraviglioso, 6 anni dopo, nasce il gruppo di suore di clausura, che vengono chiamate Serve dello Spirito Santo dell'Adorazione Perpetua, con lo scopo di dedicarsi esclusivamente all'adorazione del Santissimo Sacramento, intercedendo per le missioni. E il loro servizio sarebbe stato quello di pregare, pensate, giorno e notte per la Chiesa e per le altre 2 congregazioni missionarie, con una presenza continua di adorazione davanti al Santissimo Sacramento. E per loro, per molti anni, Sant'Arnoldo fu padre e maestro, e tenendo incontri settimanali con loro, poi 4 volte l'anno le riuniva tutte per formarle alla loro missione, ma in modo particolare anche alla fedeltà al Papa, pensate. E fino alla sua morte, una delle preoccupazioni fu quella della formazione, la formazione dei suoi figli e delle sue figlie. A lui non interessava affatto la quantità, ma gli interessava tantissimo la qualità. Per questo invitava sempre gli aspiranti alla vita religiosa ad una scelta libera, una scelta responsabile, prima di cominciare il noviziato di ricevere il suo diaconato. Ecco, un criterio determinante per la loro ammissione all'interno della congregazione era sempre la vocazione, ma vocazione intesa come dono totale a Gesù. Voleva persone che sapessero il fatto loro, che accettassero con piena libertà di fare parte dell'istituto, ma anche disposti ad andare in missione in ogni parte del mondo, Diversamente li esortava, no, non li scoraggiava, ma li esortava ad aggregarsi a qualche diocesi. Diceva loro: se voi non potete dare tutto, il buon Dio non vi può usare per le missioni. E proprio grazie alla sua lunga esperienza di professore, curò molto anche la formazione culturale, intellettuale dei suoi figli. E dei 500 religiosi che durante i suoi 33 anni di governo salirono sull'altare, un 15% fu inviato a perfezionare gli studi di filosofia e di teologia a Roma, oppure quello delle lingue nelle università di Vienna, Berlino, a Innsbruck, a Bonn. Non solo, voleva che anche le suore, già durante il postulandato, studiassero due lingue straniere e per loro fece erigere un istituto magistrale destinato a prepararle per poter poi insegnare nelle scuole in terra di missione. Anzi, fece di più, e questa non era una cosa tanto facile. Superando i preconcetti del tempo, preparò diverse suore perché diventassero ostetriche, perché allora non era una cosa normale, cioè che le suore facessero le ostetriche, ma era una cosa al di fuori di ogni logica. Invece lui aveva già capito, aveva già visto, in molte terre di missioni non c'erano neanche medici, e molte donne morivano anche per il parto, come anche i bambini. Quindi questa era una grandissima cosa, un grandissimo aiuto. Molto stretta poi fu anche la collaborazione con i suoi consiglieri generali. Era attento, ci viene detto, alla nomina dei superiori e sollecitava proposte e indicazioni anche dei confratelli. Voleva una condivisione generale anche di questo tipo. Con loro teneva una regolare corrispondenza anche per appianare contrasti. Oddio, anche nelle comunità ci sono. Richiamare anche all'osservanza soprattutto delle costituzioni, ma soprattutto ricordare a tutti che non c'erano né sudditi né superiori. Si era tutti in Gesù. Ognuno di loro era fratello dell'altro, anche se ognuno aveva un suo compito. Ed era suo desiderio, soprattutto quando andava a far visita alle case, incontrare in modo particolare i giovani chierici per donare speranza, per incitarli, per infiammarli in questo amore di Dio. Le ascoltava sempre con grande bontà e attenzione. E poi, negli inevitabili, dicevamo, contrasti tra confratelli superiori, non disdegnava di ascoltare sempre le due parti, non assumeva mai atteggiamenti parziali, soprattutto per salvare la veracità e l'onestà. E in effetti nelle migliaia di lettere che scrisse c'è sempre grande sincerità, nulla che sapesse di finzione. Nelle cose essenziali era anche severo, sapeva rimproverare, evitava però le parole dure, cercando comunque di coinvolgere, di spronare, benché fosse come aveva un temperamento insomma piuttosto forte, vulcanico e incline per natura al rigorismo. Ma proprio per mezzo della preghiera, una preghiera meravigliosa, e la sua intima unione con Gesù, portò così quest'opera, che il Signore gli aveva dato la possibilità di realizzare, la portò a una tale altezza, pensate che alla fine del secolo XIX, lui divenne una delle figure più eminenti della Germania. Ma, com'era silenziosa e discreta la figura del suo santo protettore, era San Giuseppe, di cui era devotissimo, anche lui, Sant'Arnoldo, desiderava restare nascosto agli occhi di tutti, amante com'era del silenzio e della solitudine. Quando sentiva magnificare la sua congregazione, si limitava a dire: «Il Signore ha scelto lo strumento più misero», oppure cercava di deviare il discorso. Quando invece era umiliato, oppure contrariato, diceva: «Sia fatta la volontà di Dio per quanto male possa fare». E nelle riunioni che teneva i confratelli, era maestro, quindi insegnava, raccomandava sempre la fiducia in Dio in qualsiasi circostanza della vita, anzi, ai superiori diceva: fate tutto quello che potete e lasciate il resto al Signore. Oltre che geniale organizzatore e instancabile operaio nella vigna del Signore, era soprattutto lui per primo a dare l'esempio. Verso le 5 del mattino si trovava già in cappella per fare ogni giorno la Via Crucis, prima di prendere parte alle pratiche religiose comunitarie. Celebrava la Santa Messa, che era il suo amore, con una devozione esemplare, perché proprio il Santissimo Sacramento, l'Eucaristia, costituiva il sole della sua vita, possiamo dire, davanti al quale, quando poteva, trascorreva tutto il tempo, il giorno e la notte. Ne aveva poco di tempo, ma quando poteva andava là, piuttosto non mangiava, non dormiva, ma era davanti al Santissimo. E amava Gesù così, con un trasporto incredibile, e quando ne parlava con gli amici, la sua voce, il suo viso diventavano davvero fuoco e fiamma. Gesù per lui era tutto, eppure il suo dire era molto semplice, non cercava parole particolari o ricercate, era di una semplicità incredibile, anche, e con questo conquistava i cuori, con la semplicità. Camminava per le strade sempre ad occhi bassi e pregava senza badare a quello che accadeva attorno a sé. E oltre a una particolare devozione alla Santissima Trinità, alla Vergine Maria, abbiamo visto a San Giuseppe, aveva anche una devozione particolare ai Santi Angeli e ancora in modo più particolare all'Angelo Custode. Poi a San Giuseppe ricorreva con fiducia anche, e non mancavano, potete immaginarlo, anche le difficoltà economiche, e lo raccomandava San Giuseppe come speciale patrono, anche a modello per la modestia e la semplicità di vita. Convinto anche che, lui diceva, senza dolore e afflizione non si può quaggiù veramente amare Dio, metteva spesso un asse nel saccone di paglia su cui dormiva, e talora, ci viene detto, portava sul corpo il cilicio. Anche il cibo, molto, molto spesso, era solo pane e acqua. E nei viaggi, che faceva sempre in terza classe, quando non li faceva a piedi, si cibava di quello che aveva con sé, quindi pane raffermo, un po' di formaggio, dell'acqua. Si dice che quando l'imperatore Francesco Giuseppe lo ricevette in udienza, si è rimasto edificato dalle sue scarpe pulite, ma rattoppate. Non era uno che, non perché fosse avaro, al contrario, era di una generosità e di una magnificenza unica, un santo veramente incredibile e un esempio davvero meraviglioso per noi. Voleva evitare quello che a suo parere poteva essere superfluo, quindi scarpe nuove per lui erano superflue, le faceva rattoppare, ma come era attento a questo, era invece di una generosità infinita nel soccorrere i poveri, nel visitare e confortare i malati, anche e soprattutto i suoi confratelli malati. Convinto com'era, lui diceva che Dio, diceva Sant'Arnoldo, ama coloro che lo ringraziano nella sofferenza, e là dove ci sono degli infermi, lì vi è anche la benedizione del Signore. E nel 25esimo delle fondazioni, i membri delle comunità erano composte, insomma, era cresciuta parecchio, tutte e tre le congregazioni, era composta da 208 sacerdoti, parliamo adesso della congregazione maschile, 549 fratelli, poi invece c'erano 190 suore, 99 studenti di teologia e 731 studenti delle classi inferiori. Insomma, era veramente un bel raccolto. Il Signore gli aveva permesso di fare davvero un raccolto meraviglioso. E così visse questo meraviglioso apostolo della Germania finché il primo settembre 1908 fu colpito purtroppo da un infarto. Stava molto male, quindi non stette per un paio di settimane, e in queste settimane diede notizia della malattia anche al suo vicario apostolico in Cina, e scrisse così: «La mano del Signore mi ha colpito gravemente, ora attendo la mia fine, però confido nella bontà del Signore e nella morte redentrice di Gesù. Non ho paura nell'abbandonare questa vita, anzi mi rallegro per la vera vita che poi incomincia». E nel suo testamento scrisse: «Non merito neanche di essere stimato e onorato, visto che in tanti punti ho adempiuto male la volontà di Dio e che sono in genere un povero peccatore». Morì così Sant'Arnoldo, dopo aver molto pregato, il 15 gennaio 1909, a 72 anni. E così, dopo la morte, le sue spoglie mortali furono conservate a Steyl, nella cappella della casa madre. Oggi, pensate, ci sono più di 3.600 suore e più di 6.000 missionari verbiti presenti in 67 paesi del mondo. In Europa sono presenti in 22 paesi, 18 in America, 3 in Australia, 14 in Africa e 10 in Asia, e sono impegnati in modo particolare nel servizio pastorale nelle parrocchie, nella formazione e nelle cure delle comunità ecclesiali. E lo fanno come sacerdoti, cappellani, fratelli laici, anche come cooperatori in varie opere sociali e caritative. Ma tornando a Sant'Arnoldo, Papa Paolo VI lo beatificò con uno dei sacerdoti della sua congregazione. L'abbiamo visto prima, era Giuseppe Freinademetz. Era il 19 ottobre 1975, singolare questa cosa. Alcuni anni dopo ci fu però il secondo miracolo che lo portò alla canonizzazione di cui vi faccio partecipi in modo molto breve. Cos'era successo? Che il 3 dicembre del 1980 una giovane filippina, Pamela Avellanosa, cadde dalla bicicletta sbattendo violentemente la testa al suolo e procurandosi un grave trauma cranico-encefalico. Dopo alcune ore venne portata in ospedale, dove i medici riscontrarono un coma profondo con arresto respiratorio. La situazione si presentò subito grave, tanto che i medici comunicarono ai genitori che la ragazza era ormai in fin di vita e che se avesse superato questa operazione, che era dovevano fargli subito, sicuramente sarebbe rimasta paralizzata, se non addirittura allo stato vegetativo. La nonna però, vista la situazione gravissima, si rivolse con una grande fede alle suore serve dello Spirito Santo dell'Adorazione Perpetua che erano in quella città, e chiedendo la guarigione, cioè il miracolo. E allora insieme le suore iniziarono una novena all'allora Beato Arnoldo, chiedendo appunto la guarigione di Pamela. Insomma, la ragazza in modo inaspettato si riprese rapidamente, e il 15 gennaio, quindi dopo più di un mese, il 15 gennaio è la festa dell'allora nostro Beato, fu trasferita in una camera privata per essere curata, con grande sorpresa dei medici, cioè non riuscivano a capirci niente, ma era impossibile, dicevano una cosa così. Da quel momento, in maniera ancora più sorprendente, riguadagnò la vista, l'udito e la parola. Insomma, per farla breve, venne dimessa alla fine di gennaio e da allora vive una vita normale. Ma questa fu una bella notizia per le Filippine e anche per la stessa Asia, verso la quale Sant'Arnoldo portò sempre un amore particolare. E tanto che i vescovi raccolsero ed inviarono a Roma da lì ben 80.000 firme che chiedevano di aprire con questo miracolo, che doveva però essere verificato, il processo di canonizzazione. E qui questo miracolo, cari amici, fu riconosciuto dalle autorità ecclesiastiche, soprattutto dai medici, e San Giovanni Paolo II lo canonizzò, pensate, proprio con questo suo confratello altoatesino, Giuseppe Freinademetz, questo altoatesino, e con San Daniele Comboni. Ed è il 5 ottobre 2003. E il Papa aprì la sua omelia in quella domenica con queste parole: predicate il Vangelo ad ogni creatura, Marco 16,15. Con queste parole il risorto, prima dell'ascensione, affidò agli apostoli l'universale mandato missionario. Subito dopo, dice il Papa, le assicurò che in tale impegnativa missione avrebbero potuto contare sulla sua costante assistenza. Queste stesse parole sono risuonate in modo eloquente nell'odierna solenne celebrazione. Esse costituiscono il messaggio che ci rinnovano questi tre nuovi santi: Daniele Comboni, Arnold Jensen, presbitero, fondatore della Società del Verbo Divino, della Congregazione delle Suore Missionarie e Serve dello Spirito, e della congregazione delle suore serve dello Spirito Santo dell'adorazione perpetua. E poi di Josef Freinademetz, presbitero, della società anch'esso del Verbo Divino. La loro esistenza, dice San Giovanni Paolo II, mette in evidenza che l'annuncio del Vangelo costituisce il primo servizio che la Chiesa può rendere a ciascun uomo e all'intera umanità. L'evangelizzazione, insegnano questi nuovi santi, oltre a interventi di promozione umana, talora persino rischiosi come testimonia l'esperienza di tanti missionari, comporta sempre un esplicito annuncio di Cristo. Questo è l'esempio e questa è l'eredità preziosa che i santi, elevati oggi agli onori degli altari, lasciano specialmente alle loro famiglie religiose. Il salmo responsoriale che poc'anzi abbiamo cantato sottolinea, dice il Papa, l'urgenza della missione ad gentes anche in questi nostri tempi. Cammineranno i popoli alla tua luce, dice Isaia 63. L'immagine profetica della nuova Gerusalemme, che diffonde la luce divina su tutti i popoli, illustra bene la vita e l'instancabile apostolato di Sant'Arnoldo Jansen. La sua attività sacerdotale fu piena di zelo nel diffondere la parola di Dio utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione di massa, specialmente la stampa. Non si perse d'animo, dice il Papa, dinanzi agli ostacoli. Amava ripetere, l'annuncio della buona novella è la prima e principale espressione dell'amore del prossimo. Ed è quello che fa Radio Maria. Continua il Papa. Dal cielo ora egli aiuta la sua famiglia religiosa a proseguire fedelmente nel solco da lui tracciato, che testimonia la permanente validità della missione evangelizzatrice della Chiesa. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, Marco 16:20. Così l'evangelista Marco conclude il suo Vangelo. Aggiunge poi che il Signore non cessa di accompagnare l'attività degli apostoli con la potenza dei suoi prodigi. E conclude Giovanni Paolo II. Ogni cristiano è inviato in missione, ma per essere autentici testimoni di Cristo occorre tendere costantemente alla santità. Accogliamo, carissimi fratelli e sorelle, questo invito che ci viene dall'odierna suggestiva celebrazione. Ci illumini dal cielo la Regina dei Santi, stella della nuova evangelizzazione. A lei ci rivolgiamo con fiducia, specialmente in questo mese di ottobre, dedicato al rosario e alle missioni. Maria Santissima, Regina delle missioni, prega per noi.